sesso fanno la TV del dolore, ti dona il suo calore, se sono miliardi, milioni di milioni, e noi dietro a carote e bastoni. Ne ha creata un'altra bella, lustra la sua spada e cracchia una rondella. Usa solo il dado, insaporisci lo stufato, è l'unica il tuo das per i problemi di bucato. Miss Crevella invece, lei non conosce offese, lei è sempre pronta con le orecchie tese. Oh dea santa, oh musa ispiratrice, come funziona la tua lavatrice? Al posto del cervello ti ritrovi in portafogli e spendi la tua vita all'asta degli imbrogli. Contano favole sopra i pannolini, basta bastardi, non siamo più bambini. Ferrara, Baudo, Raffaella, Carrà, vogliono venderci il falso con la verità. Oh dea santa, oh musa ispiratrice, come funziona la mia lavatrice? Al posto del cervello ti ritrovi in portafogli e spendi la tua vita all'asta degli imbrogli. Non stare a guardare, dire burattinai, fermali adesso, se no saranno guai. Strappali adesso quel diabolico potere, d'inchiudarti alla TV ancora per ore. Oh dea santa, oh musa ispiratrice, come funziona la mia lavatrice? Dal posto del cervello ti ritrovi in portafogli e spendi la tua vita all'asta degli imbrogli.